Sampan di dayung hai nelayan ke pantai nan biru. Kalau tuan mencari jodoh, jangan mencari hai nelayan selalu cemburu. Dayung sampan ke laut biru, sampan di dayung hai nelayan. Dayung, dayung, dayung, dayung sampan. Dayung sampan menjala ikan, ikan dijala hai nelayan di dalam lautan. Ha, ha, ha, ha. Sampan di dayung, sampan di dayung hai nelayan ke pantai nan biru. Kalau tuan mencari jodoh, jangan mencari hai nelayan selalu cemburu. Sampan ke laut biru, sampan di dayung hai nelayan. Dayung, dayung, dayung, dayung sampan. Dayung sampan menjala ikan, ikan dijala.